chi è l'uomo violento non sono io, neppure tu. E l'altro. Secondo il dizionario, violento è colui che esercita con facilità e brutalità la propria forza fisica o altri mezzi di coercizione per imporsi agli altri. Il violento è un essere impetuoso, furioso, aggressivo. È una persona brutale. Nessuno di noi si immedesima in un quadro del genere. Eppure, più di una volta, siamo stati violenti. Una riflessione in merito al violento induce ognuno di noi a avere davanti agli occhi quasi esclusivamente la violenza maschile e non quella femminile, perché è nel maschio che risiede la forza maggiore, sebbene la violenza è anche una caratteristica della donna. La prima violenza che esercita la donna è nei confronti dei bambini sui quali ha, fino ad una certa età, potere di morte e di vita. Una donna si è buttata giù dal terzo piano con il suo bambino in braccio, un'altra ha dato da bere del veleno a suo figlio e poi si è tolta la vita. In televisione hanno fatto vedere una babysitter che buttava letteralmente sul sofà i bambini in custodia. È stato possibile riprenderla perché i genitori, insospettiti, avevano messo nella stanza una telecamera nascosta. Nessuno sa quanti bambini vengono maltrattati violentemente da colei che è l'emblema dell'amore. Anche se a molti non sembra, vi sono donne che sono manesche e violente anche nei confronti dei loro mariti, al punto che alcuni di essi sono finiti all'ospedale. Ho letto in un periodico che i mariti che subiscono violenze da parte delle donne sono appena inferiori agli uomini che fanno violenza alle donne. Che questa statistica sia attendibile oppure no, sta di fatto che molti uomini subiscono violenze dalle proprie mogli in silenzio per vergogna. E, quando sono ricoverati in ospedale, testimoniano di essere caduti dalle scale o essersi fatti male da soli. A volte però non è possibile nascondere la realtà, come quella donna che è saltata alla ribalta di tutto il mondo per aver tagliato il pene all'uomo con il quale aveva una relazione. Inoltre, non sono rare le volte che donne si mettano le mani addosso fra loro stesse, picchiandosi a più non posso. Perciò se la donna è così violenta non stupisce che il maschio, molto più forte per natura, eserciti la supremazia della propria forza fisica, con facilità e brutalità nei confronti della donna. Purtroppo le leggi italiane a volte sono insufficienti per proteggere la donna. Ho letto di uno stupratore che ha violentato una 17enne in una biblioteca. Dopo essere stato imprigionato, al termine dell'interrogatorio di convalida, svoltosi nel carcere di Chieti, è stato rilasciato il giorno dopo. Come frenare l'uomo violento? Anche la parola di Dio considera l'uomo violento, presentandone le caratteristiche e proponendo il rimedio perché impari a comportarsi secondo la morale comune. PR 16 e 29. L'uomo violento trascina il compagno e lo conduce per una via non buona. Secondo Dio, il violento è dunque colui che trascina o conduce il prossimo a compiere il male. Dunque è violento non solo chi agisce come tale, ma anche chi induce altri a comportarsi male. In quest'ottica siamo tutti violenti, perché nessuno di noi è un'isola. Ciò che facciamo ha una ripercussione sugli altri. Se siamo maldicenti, sproniamo altri ad essere maldicenti. Se siamo pigri, invitiamo alla pigrizia. Se siamo ritardatari, incoraggiamo altri ad arrivare in ritardo. Ecco perché la parola di Dio, per evitare questa catena del male, ordina di essere un esempio. L'apostolo Paolo rivolge questo invito al suo figlio spirituale Timoteo. 1 T4 e 12. Sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Titi 2, 7. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Spesso le persone si lamentano perché gli altri non fanno certe cose, non dicono ciò che devono dire, mentre loro vivono da spettatori. Ecco perché possiamo spesso fare di più per gli altri, correggendo i nostri errori, che cercando di correggere i loro. Possiamo essere utili alla società quando ci miglioriamo, anziché limitarci a criticare gli errori altrui. Chi desidera migliorare se stesso difficilmente diventa un violento e difficilmente trascina altri a compiere il male. In effetti, quando l'Apostolo Paolo credeva di essere in regola con Dio, faceva tante cose sconvenienti al punto da dire mal pari. Prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento. 1 Timoteo 1:13. Quando si pensa di possedere la verità si diventa dei violenti, come l'Apostolo lo era Paolo mettendo in prigione i cristiani. Come il cattolicesimo, che ancora oggi in certi paesi perseguita i cristiani. E come gli estremisti, che mettono bombe ovunque. Se il violento fosse solo, il male sarebbe arginato, ma avendo compagni l'opera del violento è senza posa. Perciò solo la grazia di Dio può trasformare un violento come esempio di male in un uomo esempio di bene. Il violento avrà la soddisfazione di imporsi con la forza e brutalmente, ma la sua sorte non è affatto attraente. Infatti, le conseguenze negative dell'uomo violento sono varie. PR 3:31. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie. Nel profondo dell'uomo ci è il desiderio di aiutare il prossimo, di essere di esempio, di essere ammirato. Non raggiungendo questo obiettivo ci si sente frustrati. L'uomo violento non ha nulla da insegnare, né qualcosa da invidiare. Sembra poca cosa, ma bisognerebbe essere in grado di comprendere cosa significa non avere nulla da dare al prossimo. E una situazione talmente insopportabile che alcuni sentendosi inutili arrivano all'estremo gesto del suicidio. Come ha detto Lewis Thomas, la maggior parte delle persone ha il desiderio istintivo insaziabile e biologicamente determinato di rendersi utile. È sufficiente guardare l'espressione del volto di un bambino quando comincia a comprendere di poter essere utile al papà nei primi lavoretti. L'inutilità è anche il dramma di molti anziani. Ebbene, il violento non ha proprio nulla da dare. Perciò il violento rientra in una delle peggiori categorie, al punto che la sentenza di Dio è molto severa. PR 22:24. Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento. Il violento alla fine rimane solo. Come disse qualcuno, la solitudine peggiore non sta nel non avere nessuno vicino, ma nel non avere nessuno che ci aspetta. Il violento non è atteso perché le sue gesta non sono attraenti. Conosco una cara persona che ha una buona dose di altruismo, ma i suoi comportamenti sono violenti al punto che le persone preferiscono rivolgersi ad altri piuttosto che a lui. Egli vive nella solitudine e cerca di non risentirne, ma si vede che vorrebbe creare delle amicizie e non riesce. La violenza allontana istintivamente le persone, come le allontana istintivamente un gatto che graffia anziché fare le fusa. Se anche ci fosse una certa dose di volontà di andare con l'uomo violento, chi ha posto fede in Cristo non cercherà la sua compagnia perché sa che potrebbe esserne influenzato e finire con il comportarsi come lui. L'amore per Dio e per il prossimo è anche nel non partecipare alle malefatte del prossimo, e il violento rientra in una delle compagnie da evitare. Chi ha posto fede in Cristo osserva il violento e da esso trae due lezioni principali. A. Il violento non può occupare posti di guida. Così scrive Paolo a Tito. Titi 1:7. Bisogna che il conduttore sia irreprensibile, come amministratore di Dio. Non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto. Lo stesso scrive anche nella lettera indirizzata a Timoteo. 1 Timoteo 3:3. Il conduttore non deve essere dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro. Se il violento è chi impone agli altri con la forza il suo punto di vista, è ovvio che egli non possa essere un conduttore di una comunità o occupare un qualsiasi posto di comando. E volere di Dio che chi conduce una comunità rispecchi le caratteristiche di Cristo, il quale era mite nelle parole e negli atti. Se un violento non può occupare posti di governo, cosa dire di quei violenti che sono mariti? La moglie di un violento deve avere una grande saggezza per mantenere una buona relazione e, soprattutto, deve saper aspettare i momenti migliori per parlare con il marito. B. La misericordia di Dio è più grande del nostro peccato. Come abbiamo già preso in considerazione, l'Apostolo Paolo, prima di avere un'esperienza personale con Cristo, si è annoverato tra i violenti. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. 1 Timoteo 1:12. Il comportamento di Paolo, prima della conversione, ci dice che anche per il violento vi è la possibilità di essere uno strumento nelle mani di Dio. Non vi è peccato o debolezza che Dio non possa trasformare in benedizione. Paolo era un violento quando era religioso, ma lo faceva per ignoranza, perciò, quando fu fermato dalla violenza di Dio cadendo dal cavallo, divenne un uomo mite. La violenza dell'amore di Dio è più forte della violenza sbagliata dell'uomo. Per questo, ognuno di noi dovrebbe ogni giorno e ogni istante essere riconoscente per la violenza, perché se esiste una violenza sbagliata significa che esiste una violenza giusta. Infatti Gesù disse: a chi là? Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Matt 1:12. Occorre un desiderio aggressivo e violento per compiere la volontà di Dio, perché l'ingiustizia è talmente forte che solo una santa ferma determinazione violenta può fermarla. Gennaio 2007. Ellero.